In questo tempo pasquale stiamo guardando in maniera preferenziale agli Atti degli Apostoli per vedere come si comportava la Chiesa, non avendo più Gesù fisicamente presente. E vediamo anche oggi, sentiamo il capitolo 15 degli Atti, che Barnaba, Paolo e in altri capitoli altri, compreso Giovanni, compreso Pietro, si danno da fare a predicare la persona di Gesù. Si danno da fare a predicare il nome di Gesù. Noi non avremmo la Chiesa se non avessimo avuto gli Apostoli. E oggi se non avessimo i successori degli Apostoli, che sono i Vescovi. E se non avessimo Pietro, ancora ai giorni d'oggi, che è il Santo Padre, è il Vescovo di Roma, primo tra gli Apostoli, primo tra i Vescovi. Cari amici, a me dispiace tanto tutte le volte che sento criticare questo Papa, da parte soprattutto di gente vicina, gente che ancora tira in ballo, è la processione con la Pachamama, e questo qui adesso è un pagano, e chi gli dà del massone, e chi gli dà del comunista, e lui dice... Veramente, se io parlo dei poveri, non è perché sono comunista, è perché seguo il Vangelo. Io dico a voi, amici, non credete a quello che gli altri dicono di lui. Leggete voi stessi quello che lui dice. La nostra comunità parrocchiale tutte le settimane presenta quel foglio lì, giallo, con l'udienza del Santo Padre. Provate a seguire come sta parlando bene della preghiera. Settimana l'altra, la preghiera vocale, tante volte così disprezzata, invece dice: ma va benissimo la preghiera vocale, ci fa esprimere anche con la voce le nostre intenzioni. Questa volta ha parlato della meditazione. Parole semplici, ha un modo di parlare che lo capisce anche la gente che va a fare la spesa al mercato. Dice che la meditazione non è uno scavare dentro di sé per trovare le profondità della nostra mente, del nostro io. No, al massimo questa ti può dare un po' di serenità, un po' di pace. La meditazione è entrare in noi attraverso la porta che è Gesù, andando a Gesù, e cita dei casi, dice: se leggiamo un brano del Vangelo, la risurrezione di Lazzaro o altri miracoli di Gesù, altri insegnamenti, noi proviamo a metterci lì anche noi con la nostra mente come se fossimo presenti e dire: che cosa insegna a me oggi? Questo l'insegnamento del Papa, adesso parlo con parole mie. Io uso una parola facilissima. Quando riflettiamo sulle parole del Vangelo, dobbiamo attualizzarle, cioè portarle ai nostri giorni. Guardate che è una cosa semplicissima. La stessa cosa la si può fare, la si deve fare, quando si meditano i misteri del Rosario. Per non sfarfallare in giro, Gesù flagellato, pensa tu, chiudi gli occhi, ti immagini di essere lì, magari hai letto com'era il flagello, come avveniva, e tu ti immedesimi dentro e dici: ma se fosse oggi? Ma c'è ancora gente flagellata? È stato così che io per la prima volta in vita mia mi sono messo a pregare per le persone torturate. Mai pregato per loro, forse neanche voi. Ma pensare che il flagello era una tortura bestiale, pensare che Gesù l'ha subita, immaginarmi, avevo letto come era fatto il flagello e così via, dicevo: Signore, ti prego per quelli che sono oggi torturati bestialmente da altri uomini. Questa è la meditazione, amici. Tu prendi un episodio, una frase, una parola del Vangelo e la attualizzi a te. Sapeste com'è bello pregare così? Ci vuole del tempo. Non puoi farlo in mezzo al chiasso. Devi farlo o in chiesa, bellissimo davanti al tabernacolo, o in casa tua in silenzio, non mentre ascolti con un orecchio la televisione. Devi entrare nel profondo del Vangelo e applicarlo alla tua vita. E questo ce lo suggerisce il Papa. Guardate se non è ancora Pietro oggi, al quale Gesù dice, l'aveva detto a Pietro, e tu Pietro rafforza, sostieni la fede dei tuoi fratelli. Cari amici, vi auguro di incontrare, almeno nelle udienze, che noi le pubblichiamo e poi le trovate dappertutto in internet, quello che dice Papa Francesco, che è un grande maestro di spirito e di cristianesimo.